Italia in controluce. Sono le 13:33 minuti e 20 secondi ed è l'ora di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana in due edizioni, 6:30, 13:30. Buongiorno e buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Eccovi alcune anticipazioni per le prossime puntate di Italia in controluce. Stiamo preparando per voi reportage ed inchieste sulle fonti rinnovabili dopo la decisione del Consiglio dei Ministri, sulla prevenzione dei terremoti partendo da un caso di strani boati che provengono dalla terra, che si sentono da mesi, forse da un anno, nella zona Tabellone Treviso. Un reportage in preparazione sui giornalisti minacciati dalle mafie, dal terrorismo, al nord come al sud. Ma stiamo preparando per voi anche altre storie, la storia di vita low cost, di campi nomadi a Brescia, di cliniche della mafia. Stiamo anche intervistando molti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che racconteranno per voi problemi ed eccellenze delle città in cui vivono. Tutto questo e molto di più a Italia in controluce. E come ogni venerdì a quest'ora giriamo tra i banchi di scuola con il nostro focus di Piera Ceci. Scuola in controluce. Hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso. A turno un ragazzo per interfono legge un articolo della Costituzione e quindi all'interno poi delle classi gli insegnanti, i ragazzi fanno delle riflessioni liberamente sull'articolo, su quanto ritengono opportuno commentare. Mi ricorda un po' la mia preghiera di quando eravamo piccolini, che ci facevano dire la preghierina all'inizio della lezione, un momento di riflessione. Una preghiera laica questa? Sì, può essere una preghiera laica e comunque visto che siamo all'interno di una nazione, che è l'elemento essenziale del nostro Stato e la Costituzione, pensiamo sia importante dare uno spazio e in occasione anche di queste celebrazioni dell'Unità d'Italia. Un articolo della Costituzione al giorno da leggere e commentare insieme in classe, come ci ha spiegato la preside Giuseppina Vincitorio, per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia in maniera viva, perché il tutto non si risolva nella polemica scuole chiuse, scuole aperte e in un giorno di vacanza in più. Francesco, quarta F, l'avete sentito poco fa, ha letto l'articolo sulla libertà di culto, un articolo importante. Sì. È un articolo molto importante, ne avete parlato in classe? Sì, con il nostro professore ne abbiamo discusso stamattina di questo articolo, perché appunto è molto anche d'attualità. Soprattutto quello, perché sappiamo tutti cosa porta, cioè le dispute che ci sono su questo argomento, insomma. Senti Francesco, come avete preso voi questa iniziativa? È effettivamente interessante o è un po' una palla, diciamocelo? No, assolutamente, non è affatto una palla. Cioè, noi la ritiamo molto interessante, forse anche perché, cioè, non facendo diritto in questa scuola, comunque non la conosciamo a fondo, non è un argomento conosciuto a fondo nei ragazzi. E quindi appunto l'abbiamo accolto positivamente perché ci dava l'opportunità, uno, di renderci protagonisti, perché comunque leggere all'interno della scuola un articolo, comunque, cioè, si ha l'idea di fare qualcosa per tutti, insomma. Poi in secondo luogo perché appunto ci faceva conoscere delle cose non a noi note e approfondirle. E che ha a che fare tutto ciò con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia? Essendo la Costituzione Costituzione, appunto il perno fondante della nostra Repubblica, del nostro Stato, ci sembrava, sembrata una decisione appunto adatta per celebrare appunto quello che è lo Stato italiano, insomma. Questo invece è Giacomo, anche lui quarta F. I cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Questo è l'articolo 18. Che significato ha per te la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia? La senti come una cosa lontana, un po' scolastica? Forse vi ha costretto a studiare un po' di più il Risorgimento? Beh, no, assolutamente no. Innanzitutto, comunque, il nostro Stato è uno Stato ancora giovane e purtroppo già adesso, benché sia giovane, si tende molto a dividerlo. E secondo me è fondamentale da parte della scuola cercare di dare un segno proprio di un'identità nazionale, e dobbiamo riconoscerci soprattutto in questa Costituzione che viene in questo periodo anche un po' così presa poco in considerazione, e difatti con questa iniziativa si sollecitano tutti i nostri alunni, insomma, a pensare a riguardo e anche magari a portare all'interno delle famiglie osservazioni, visto anche, insomma, il territorio in cui ci troviamo, che non ha di certo forte passione. Matteo, quarta B. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Questo è l'articolo 7. Ti ha colpito per qualcosa in particolare? Sì, mi ha colpito intanto perché è conciso, è molto conciso come articolo, quasi come l'articolo 6, diciamo, che è particolarmente breve, e perché nonostante abbia poche parole in sé, sono parole che hanno un peso enorme, cioè stabilisce un confine netto tra due istituzioni che hanno un impatto nell'ambito della popolazione che è enorme. Ecco, anche a te Matteo chiedo, ma che significato ha per te questa celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia? La senti una cosa a te vicina oppure un obbligo scolastico un po' come tutti gli altri? No, beh, un obbligo scolastico no, la sento vicina soprattutto perché l'Italia è il paese in cui viviamo, e quindi dobbiamo prendercene cura. Dobbiamo prendercene cura anche sapendo cosa è successo prima, su cosa si fonda, qual è la base, da dove siamo partiti. Abbiamo 150 anni di storia alle spalle adesso e dobbiamo proseguirle al meglio. 150 anni di storia alle spalle e la voglia di Matteo di proseguire al meglio, una voglia quella di Matteo nata anche grazie alla scuola, luogo privilegiato per parlare di Unità d'Italia. Ne è convinto l'editore Giuseppe Laterza, che con la sua casa editrice ha scelto di festeggiare proprio nelle aule il 150esimo con questa iniziativa. L'idea dell'iniziativa è molto semplice, abbiamo pensato che la scuola è il luogo dove parlare di Unità d'Italia, perché è nelle scuole che sono fatti gli italiani. Siamo passati da essere un popolo di analfabeti sudditi degli antichi stati ad essere cittadini con una lingua comune, e questo grazie alla scuola prima di tutto. Allora abbiamo chiesto a 10 scuole di 10 grandi città italiane, da Palermo a Napoli, a Roma, a Milano, a Vicenza, a Genova, a Torino, a Firenze, a Bologna, a Bari, di aprire la città, cioè di ospitare una serie di lezioni, workshop, incontri con storici, ma non solo, illustri e diciamo i capaci, che siano però, come dire, partecipate dai cittadini e quindi promosse nelle città, perché tra il 15 e il 17 marzo i cittadini vadano a scuola a discutere l'Unità italiana nelle scuole. Quindi la scuola che si apra ai cittadini e parli di Unità d'Italia. Lei in questi giorni, insomma, nel lavoro preparatorio ha incontrato tanti presidi, immagino che abbia incontrato anche tanti professori. Che sensazione ne ha ricevuto? Cioè la scuola è un luogo che ha voglia di parlare di questo argomento o lo trova distante? Guarda, ho avuto una sensazione straordinaria. Confesso che forse anche per ignoranza non mi aspettavo un entusiasmo e una forza, un'energia, diciamo, una capacità anche di fare cultura, perché poi molti incontri sono organizzati direttamente dalle classi, dagli insegnanti, dagli stessi studenti, sui temi più diversi, dal libro cuore al melodramma. Mi è sembrato un organismo vivo, mi è sembrato che le scuole italiane, diverse tra loro ma unificate da una diciamo, da un'idea di cultura comune, in particolare queste 10 scuole, che sono grandi scuole pubbliche di tradizione, abbiano dentro la capacità veramente di unificare questo paese, cioè di dare agli italiani il senso di italianità, diverso, di articolato, differente tra ciascuna città, ma anche con un forte senso di comunanza. E questo mi pare che la scuola oggi più che ogni altra istituzione lo possa realizzare. Grazie a Piera Ceci, questa è Italia in Controluce, la seconda edizione. Cercateci su Facebook, su Twitter, il nostro blog lo trovate su radio24.it e sempre su questo nostro sito, sul sito della radio, potete scaricare in podcast tutte le trasmissioni che volete, tutte le interviste, tutti i reportage e le inchieste. Poi abbiamo la mail controluce@radio24.it. Torniamo lunedì 7 marzo alle 6:30 su Radio 24.